Da quando ho dato il titolo a questa comunicazione a quando poi concretamente la espongo oggi, è passato molto tempo, nel corso del quale probabilmente alcune delle ragioni che mi avevano indotto a dare il titolo che ho dato, che è quello che risulta poi anche dal programma del convegno, non aveva più molto ragion d'essere. Ci sono, volevo appunto dire, delle buone ragioni da questo punto di vista. Non ultimo il fatto che di questi temi, cioè del commento dei giuristi alla tematica associativa nell'Italia liberale, si sono occupate recentemente altre persone in Italia, una qua presente, Rita Cambria, ricostruendo in maniera sistematica e piena almeno una delle parti del lavoro che avrei voluto svolgere. Ragion per cui, nell'esposizione che vi faccio, prescinderò largamente da queste che sono parti già affrontate da altri e tematizzate, ben scritte, consultabili, e cercherò invece di sviluppare una linea parallela spuria, in qualche modo, che non riguarda in maniera primaria il pensiero dei giuristi dal punto di vista di quello che significa la sistemazione teorica interna alla dottrina che si danno dell'associazione, delle forme dell'associazione, del diritto d'associazione, ma piuttosto andrò alla ricerca di alcune lontane referenze di tipo ideale che talvolta affiorano nel linguaggio dei giuristi che parlano di questo argomento, e che sono in particolare le fonti che io ho utilizzato: da un lato le due voci associazione e diritto di associazione rispettivamente nel digesto italiano, redatta da Attilio Brugnalti, e la voce invece nell'Enciclopedia Giuridica Italiana, redatta da Gaetano Arangio Ruiz, nonché il corso di diritto costituzionale di Luigi Palma, nonché quella che è la fonte primaria a cui in sostanza tutti questi luoghi di dottrina afferiscono, che sono i dibattiti parlamentari. Il diritto di associazione, o comunque il discorso sull'associazione, in Italia è stato sviluppato durante i primi decenni dell'Italia liberale, direi essenzialmente in Parlamento, da parlamentari che erano anch'essi giuristi, d'altro canto, in riferimento ad alcuni fatti traumatici che inducevano ovviamente i parlamentari a prendere posizione in materia e a cercare di colmare quello che era sin dall'inizio percepito come una sorta di vuoto giuridico. Vuoto giuridico dato dal fatto che lo Statuto Albertino del 48 in sostanza non parlava del diritto di associazione, cioè semplicemente uno degli articoli parlava del diritto di riunione. Ogni volta che i giuristi si trovarono a dibattere poi del problema, fecero riferimento a questo articolo, il quale sanciva una costellazione reale di possibilità piuttosto garantista, nel senso che, differentemente dalla realtà di altri paesi, in Italia si era puntato tutto da questo punto di vista, sul lasciare che la società civile si auto-organizzasse come meglio credeva, senza avere, per esempio, diversamente dal caso francese o da quelli a maggior ragione tedesco e austriaco, una pretesa di controllo ulteriore per quello che riguardava il momento formativo, quantomeno, di un'associazione. Si mirava invece, nel caso che un'associazione diventasse pericolosa, semmai a reprimerla, comunque attraverso un meccanismo di controllo che passava rispettivamente per l'esecutivo e per il Parlamento, e quindi stabilendo comunque un circuito in qualche modo garantista per l'espressione della tendenza associativa come fatto storico concreto. Ecco, detto questo, devo dire, il modo a cui sono arrivato a trattare di questo aspetto dal punto di vista concettuale deriva da un tragitto in qualche modo inverso probabilmente rispetto a quello percorso da coloro che oggi mi hanno preceduto. Cioè, io sono partito dallo studio della realtà associativa come fatto materiale, come fatto concreto nell'Italia dell'Ottocento, e questo è uno snodo per la mia ricerca, uno degli snodi, cioè quello di andare a verificare la sistemazione teorica poi che è stata data al fenomeno che ho studiato. Devo dire, se non faccio un eccesso forse di, come dire, presentare troppo delle carte interne poi a un contesto che è più mio personale, più ampio, quando ho accettato di tenere anche questa comunicazione, io immaginavo di trovare riflesso nella dottrina, nella parola dei giuristi, il fenomeno che studiavo che era piuttosto il fenomeno delle Freie Associationen, una delle varianti del principio consociativo di cui ci ha parlato anche di l'associazione di un modulo in primo luogo individualistico, l'associazione volontaria, così come la codificano gran parte dei giuristi in quest'epoca, si regge essenzialmente sul confronto con un controconcetto, anche in questo caso, che è quello di corporazione, laddove parlando di associazione si sottolinea volentieri per l'appunto l'aspetto volontario del nesso che l'individuo viene a creare con altri individui in una società borghese individualistica nella quale c'è stata ormai l'abolizione dei corpi intermedi e dei vari strati cettuali. Per corporazione invece evidentemente il rimando è alle realtà di tipo medievale, così accade nella dottrina, ed anche qua il tipo di temi a cui si allude quando si parla di corporazione, quando questi giuristi parlano di corporazione, è quasi sempre il sottolineare il fatto che l'associazione, la corporazione impediva il lavoro, cioè l'attacco alla libertà di lavoro, intesa in senso invece individualistico e borghese, e la corporazione ovviamente aveva dato un'altra soluzione a questo problema. Dicevo, io andavo alla ricerca di una codificazione positiva, in qualche modo, di quella che era un'esperienza borghese, in primo luogo. Viceversa, ma d'altra parte non casualmente, non paradossalmente, la codificazione o comunque il discorso giuridico sull'associazione nell'Italia liberale è un discorso che riguarda in primo luogo ed anzi quasi esclusivamente dei gruppi non borghesi, cioè delle associazioni non borghesi. È significativo vedere lo slittamento dei campi semantici connessi a questo tipo di trapasso, vale a dire c'è un vecchio campo semantico che è in evanescenza quando un giurista nell'Italia liberale parla di associazione, ed è un campo semantico che può essere descritto, raffigurato con concetti come accademia, discussione, pacifico come aggettivo, innocuo, speculativo. Questi sono, diciamo così, i campi semantici che vengono svanendo dal discorso. Quando si parla di un'associazione nell'Italia liberale, si dice in sostanza le associazioni sulle quali noi siamo oggi chiamati a discutere, sul diritto delle quali a esistere o meno e con quali criteri dobbiamo pronunciarci, sono realtà associative che non hanno nulla a che fare con questo vecchio tipo invece di modulo, che era un modulo ovviamente ristretto. È significativo per esempio che in uno dei dibattiti parlamentari, i quali sono sempre sollecitati e scanditi dal problema di approvare leggi che impediscano la formazione di associazioni antisistemiche, in qualche modo interpretate da soggetti politici e sociali che sono esclusi comunque dalla legittimazione di tipo parlamentare, i quali sono peraltro disposti in uno spettro molto vasto, cioè si comincia nel 1862 con i garibaldini, alcuni comitati, alcune associazioni che Garibaldi vuole costruire, si passa in particolare con un dibattito memorabile che si svolge tra il 1878 e il 1879 a discutere della liceità o meno di costituire associazioni repubblicane. Successivamente gli snodi sono costituiti dai dibattiti sulle associazioni internazionaliste anarchiche, e gli anni 90 conoscono come fenomeno invece primario il problema di che cosa fare delle associazioni socialiste, cioè si può provare a impedirle oppure no, insomma che problemi ci sono. Ecco, voglio dire, attraverso il discorso dei giuristi sfila in sostanza tutto ciò che durante questi decenni, di volta in volta e a strati successivi, si presenta come una forza extrasistemica. Ed è sintomatico che in uno di questi dibattiti il cancelliere Guardasigilli, mi pare che sia, trova un'espressione particolarmente, secondo me, calzante per descrivere l'interferenza tra il vecchio campo che sta svanendo, cioè quello che è stato tipico della fase montante del liberalismo borghese, quindi della affermazione propositiva di valori da parte di questo, condivisibili in una costellazione iscritta nell'ordine del principio libertà, a quello che invece sta emergendo, cioè che è un campo semantico in cui associazione si coniuga molto meglio con un concetto come ordine, cioè non più associazione come espressione di libertà, associazione come problema per l'ordine pubblico, e dunque non più associazione come qualcosa da favorire, spingere, promuovere, ma qualcosa potenzialmente da imbavagliare o comunque nel quale, nel confronto del quale porre quanti più argini, quanti più confini possibile. Ebbene, ecco, il cancelliere Guardia Sigilli, chiamato ad esprimersi in materia, trova un'espressione particolarmente secca. Ma non mi volete far credere che i 20.000 repubblicani che si stanno unendo in associazione, in corpo, in varie parti d'Italia, sono 20.000 nuovi accademici per la nostra realtà, no? E quindi questo modulo della conversazione accademica, speculativa, del gusto di interagire per autoeducarsi, che è stato uno dei momenti fondamentali probabilmente dell'etica borghese e della identificazione sociale, in qualche modo antropologica, dei nuovi gruppi dirigenti, viene meno per lasciar luogo invece a un campo in cui associazione non è più un qualcosa di speculativo, ma è un qualcosa che, sottolineano talvolta i giuristi nei dibattiti, è inteso essenzialmente per l'azione. E azione in realtà la si intende quasi sempre come azione sovversiva, azione rivolta a capovolgere gli ordinamenti fondamentali del sistema e quindi a divenire un problema per quello che riguarda l'ordine pubblico. Accanto a questa, che a me pare così la linea essenziale di interferenza tra il vecchio e il nuovo, ce n'è un'altra secondaria ed è, per quello che a me è parso di poter dedurre dalle letture, presente soprattutto verso la fine del secolo. Fino ad allora direi che si può concordare con gli studiosi che si sono occupati dell'argomento in relazione a questo campo specifico di indagine, i quali hanno sottolineato come ci sia da parte dei giuristi italiani un netto distacco da questo punto di vista, l'ambito dell'associazione, rispetto alle dottrine di Germania, alle dottrine dei maestri tedeschi. Vale a dire, si parte comunque da una percezione estremamente pronunciata di un distacco tra società e Stato. E per esempio tutto il discorso di Stein sul Vereinsrecht, il Vereinswesen, viene sì conosciuto, se ne parla, ma viene quasi sistematicamente tacciato poi appunto di statolatria, è un termine che ricorre abbastanza frequentemente, oppure il non aver concepito comunque la società come una sfera libera, sconnessa nettamente dalla politica. Tutto questo a fine secolo, quantomeno in Bruni Alti, che insomma è l'autore di uno dei due lemmi guida per quello che riguarda l'orientamento dei giuristi da questo punto di vista, essendo per l'appunto l'autore di una delle due voci nelle grandi enciclopedie giuridiche del tempo. In Bruni Alti questa percezione si complica ormai nettamente, vale a dire si tende quantomeno a questionare il fatto che l'associazione sia una specie di derivazione secondaria ed ovvia di quello che è in primo luogo un campo di diritto legato all'individuo, e la si tende invece a classificare come un ente più complesso i cui diritti quindi non possono essere gli stessi dell'individuo, se non altro per il fatto che sono dei grandi poteri pubblici. Qui credo che cogliamo un qualcosa di più complicato, di più complesso rispetto a quella che è stata la dinamica concreta probabilmente, e poi comunque anche la sistemazione teorica dei decenni precedenti, cioè questa linea di confine tra società e Stato che era stata sin lì percepita in chiave garantista sulla base di un'impostazione giusnaturalistica estremamente netta, viene probabilmente a risultare meno facilmente percepibile, tanto più che non soltanto nel discorso dei giuristi, ma anche in tante voci minori che intervengono nel dibattito politico dell'epoca, quando si assiste alla nascita le associazioni di mutuo soccorso cominciano a cambiare testa pensante, cioè cessano di essere una proiezione dei ceti borghesi per le classi popolari e tendono invece a divenire leghe di auto-organizzazione, è immediato il sollevamento del problema, ci troviamo forse davanti alla rinascita di strutture corporative. Queste leghe operaie assomigliano molto, in qualche modo, alle vecchie corporazioni che impedivano la libertà di lavoro, che impedivano la giusta attuazione dei principi della scienza economica. Questa è la formulazione, mi pare più o meno precisa, di un esponente del mondo economico, in particolare della vice direttore della Camera di Commercio di Milano, ma comunque uomo in prima fila evidentemente nell'assistere al mutamento di percezione del fenomeno in quell'epoca. Se questo è il quadro, diciamo così, generale per quello che riguarda i quattro decenni che vanno grosso modo dal 1860 ai pieni anni 90 ancora dell'Ottocento, mi piaceva sottolineare di questo quadro un ulteriore elemento che non si guadagnerebbe dalla lettura della dottrina dei giuristi. È un elemento che traggo molto di più dallo studio sulla realtà materiale. Io, soprattutto per il caso di Milano, ho cercato di ricostruire concretamente il fenomeno associativo sia dal punto di vista, diciamo così, quantitativo che dal punto di vista qualitativo, andando a cercare gli statuti, quindi le regole interne che in concreto guidavano con i loro linguaggi questo tipo di fenomeni, le liste di chi vi prendeva parte, e mi è parso di notare uno sbalzo notevole che è in qualche modo speculare a questo inizio di slittamento semantico che ho sottolineato prima e che ha luogo, direi, abbastanza nettamente, soprattutto con gli anni Ottanta dell'Ottocento. Con gli anni Ottanta dell'Ottocento, presumibilmente in quasi ogni grossa città italiana, quella che era stata sin lì un tipo di pratica sociale, cioè la pratica dell'associarsi, ristretta a una elite estremamente limitata, sia dal punto di vista patrimoniale che dal punto di vista culturale, grosso modo la stessa elite che andava poi a votare, ovviamente investita del diritto elettorale e concretamente poi rappresentata nelle istituzioni rappresentative del regno, quella che era stata sin lì come pratica associativa dunque un terreno d'esperienza circoscritto all'elite, comincia invece a essere praticato massicciamente sia da fasce medio-borghesi che da fasce per l'appunto operaie, e si assiste nel giro di pochi anni a un fenomeno che comporta all'incirca una decuplicazione della fascia di persone in una città come Milano interessata al fenomeno associativo. Cioè, poniamo che si passa da un modulo in cui in una grande città 1000 persone sono concretamente interessate al fenomeno, forse lo si poteva ancora chiamare accademia o speculazione oppure espressione di una interazione di tipo individuale, e di colpo diventano 60.000, 70.000. Credo che i contemporanei, quando si trovarono a dover codificare, a dover immettere nelle loro categorie questo tipo di realtà, dovettero avere probabilmente degli enormi problemi proprio dovuti a un salto brusco che non è neppure graduale, ha proprio un suo carattere traumatico che probabilmente rende difficile il poterlo elaborare altrimenti. Io continuavo a rimanere colpito leggendo questa letteratura del fatto che i giuristi liberali italiani parlassero soltanto delle associazioni di esponenti di gruppi sociali diversi dai loro, mentre però ancora in quest'epoca, ancora negli anni Ottanta, quasi ovunque gli stessi gruppi dirigenti, non c'è nessun bisogno di chiamarli borghesia, credo che smetteremo anche di farlo tra breve, ma diciamo così, i gruppi dirigenti dell'Italia Unita vivevano ancora o si organizzavano sulla base anch'essi del principio di associazione. Ed è quindi molto singolare che abbiano cercato di discutere in materia, di dare un dimensionamento in qualche maniera rigoroso a questa materia. Ciò sia avvenuto soltanto una volta che, da esperienza loro vissuta in prima persona, questo fenomeno è diventato invece l'espressione di una realtà di massa più vasta. Il linguaggio degli statuti, dicevo, è molto chiaro da questo punto di vista, cioè a causa di quale tipo di regole informali, fino a un certo punto l'associazione può rimanere un tipo di prassi sociale che rientra nella categoria dell'individualismo, dell'espressione dei diritti individuali, e in base a quali altre regole invece finisce per slittare nella categoria dei fenomeni paracorporati, in qualche maniera non più percepiti comunque come direttamente correlati all'ABC del sistema liberale. Le regole statutarie parlano chiaro, nel senso che si passa in moltissime società, dal punto di vista concreto, in precedenza si praticava un modulo d'ascrizione di tipo amical familiare, vale a dire in associazioni che non avrebbero contato comunque più di 300 o 400 persone in una grande città, le ascrizioni avvenivano attraverso presentazioni dirette, con fortissime procedure di controllo da parte delle assemblee, dei corpi già costituiti, e quindi la possibilità di riuscire a espungere assolutamente dai propri confini eventuali forze divergenti rispetto a quelle già rappresentate nel sistema associativo, nel modulo associativo. Gli anni Ottanta non sono soltanto gli anni della inizio dell'associazionismo operaio, sono anche gli anni, per molti versi, dell'inizio di un associazionismo piccolo borghese di massa. Pensiamo per esempio al Club Alpino, oppure il Touring Club, grandi realtà che di colpo porteranno il fenomeno associativo a diffondersi tra centinaia di migliaia di persone, laddove prima tutte queste fasce sociali ne erano escluse. Ecco, le regole di questo tipo di associazioni nuove, gli statuti, proprio sul punto dell'affiliazione, dell'iscrizione, sono sensibilmente diverse, nel senso che ormai si esplicitano attraverso un linguaggio oggettivato, non è completamente saltata la mediazione attraverso le persone, che a me pare tipica di tutta una fase di tanti decenni dell'Italia liberale, si passa invece a una iscrizione del tutto impersonale, a una cosa come alla Touring Club si aderisce per esempio semplicemente inviando una cartolina postale con una quota sociale, ma non c'è nessuno che possa aver niente da dire sulla legittimità o meno per un nuovo iscritto di far parte dell'organismo, non c'è bisogno di essere presentati da nessuno. Il venir meno di questo tipo di cortocircuito tra, diciamo così, presenza già radicata in un corpo e iscrizione di nuovi porta immediatamente una vorticosa espansione del fenomeno in un paese che, per quanto i dati ci possono dire, cambia anche dal punto di vista generale la qualità della sua vita associativa, del suo mondo associativo. C'è un'inchiesta del 1894, conservata presso l'Archivio Centrale dello Stato, nelle carte Crispi, in cui si cerca di tracciare un sommario censimento di quella che è la realtà associativa in Italia. Ebbene, in effetti, rispetto ancora a una ventina d'anni prima, è prepotentemente salito all'interno di questa realtà associativa il numero di associazioni politiche antisistemiche, cioè non monarchico conservatrici, non monarchico moderate, è poi enormemente salito il numero delle società operaie, cioè nella bilancia generale dei pesi dentro all'emma associazione noi troviamo anche dal punto di vista quantitativo ormai una netta preponderanza dal punto di vista sociale di forze che sono diverse da quelle che hanno fatto invece dell'associazione il loro primo momento di interlocuzione pubblica. Io mi fermerei anche qui, nel senso che se poi qualcuno ha interesse all'approfondimento di altri punti, ben volentieri a disposizione. Semplicemente ricordando, mi è piaciuto di andare a vedere alla fine cercare di seguire la pista storico-concettuale anche attraverso i dizionari, e mi è parso di trovare, prima ancora dei tempi concreti di realizzazione del dibattito che ho cercato di esporvi, una definizione molto stentoria di tutto il processo poi che ha interessato questi decenni centrali dell'Ottocento, una definizione che mi sembra descrivere bene il passaggio e le conversioni concettuali di quello che è un passaggio in primo luogo materiale, per l'appunto delle forme del potere dell'organizzazione sociale primaria dell'Italia liberale da una costellazione estremamente elitaria e ristretta a invece una dimensione più massificata. È ovviamente di un liberale non perfettamente con il pedigree in ordine, questa frase sarebbe stato difficile aspettarla diversamente, di Niccolò Tommaseo, quindi qua ci si coglie molto probabilmente di un senso di polemica cattolica contro il tipo di realtà che si veniva sviluppando in Italia. Niccolò Tommaseo, questa è una definizione che resterà poi anche nelle edizioni successive, ma è già nella prima del Tommaseo Bellini. Associazione. La libertà d'associazione è predicata da certi liberali quando sono deboli, conculcata quando per loro di cominciare ad essere forti. Die Fragestellung von Herrn Merigi war die Wandlung des Prinzips Assoziation innerhalb der italienischen Geschichte des 19. Jahrhunderts zu schildern als einen Passage von einer elitären, von einem elitären Begriff der Assoziation, Assoziation als Gruppe von Personen des gleichen sozialen Schichtes, die zusammentreffen, um zu diskutieren, um sich zu bilden und so weiter, zu einem Begriff der Assoziation, im Sinne einer Versammlung von Personen, die meistens gegen den Status quo handeln. In diesem Sinne gibt es auch in der Diskussion über die Frage Assoziation eine große Wandlung vom ersten, also vom entstehenden Begriff, also bürgerliche, zivilen Begriff der Assoziation als Freiheitsmoment zu einem Begriff der Assoziation als etwas, das auch gegen die Ordnung handeln kann und also von einem Prinzip der Assoziation als Freiheit zu einem Prinzip der Assoziation als Ordnung. Und das hat natürlich aber, diese Wandlung hat natürlich aber sehr viel mit der Frage zu tun, der des großen quantitativen der großen quantitativen Entwicklung, die Assoziationen in Italien während der zentralen Jahren des 19. Jahrhunderts haben. Die elitären Assoziationen waren natürlich sehr klein und also, auch geschlossen. Man musste also eine zum Beispiel Vorstellung haben von anderen Mitgliedern und so weiter. Während die neuen Assoziationen sind ganz offen, man kann sie direkt eintreten ohne Vorstellung und so weiter. Und das wurde von Herrn Merigi sehr schön durch die beiden Ebene der materiellen Wirklichkeit und der juristischen oder parlamentarischen Diskussion verarbeitet.